Beta. Ich ascoltaci. Border. Grenze. Pinkhorn. Grenzen. China. Border. Confine. Frontera. Granizza. Fronteira. La frontera. Boda. La frontière. Sima. Grenzen. Grenzen. El hudud. Granizza. Fren. Frontera. Thank you. Thank you. Radio Ruido.